yomane alaguma la mokele ne malo capote male la maleta mayen bolo goyale bana vu massa massa massa massa venga la monga hey, Massa, massa, massa.